Ciao, io sono Laura Voltolina e questa newsletter è Dei, Congiure e Successo. Oggi ti parlo di storie e di successo. No, non sarà l'ennesima storia di successo. Sono proprio due argomenti separati, ma non troppo. Immagino concorderai se dico che ci sono un sacco di storie che ci raccontiamo da sole e da soli. Anzi, spesso sono quelle a cui aderiamo di più. Si tratta di storie che vedono protagonista la nostra inadeguatezza. Quindi no, non sono storie di successo, ma di insuccessi. Ad esempio, la maggior parte di noi ha una serie di tappe obbligate di vita che ci vengono presentate fin da quando siamo piccole e piccoli e alle quali spesso crediamo. Come ad esempio, vai a scuola, magari all'università, poi trovi un lavoro a tempo indeterminato, compri casa, trovi l'amore, vai in pensione, eccetera, eccetera. Queste tappe le possiamo anche mescolare. Ad esempio, la mia amica Mara, ciao Mara, ha trovato un grandissimo amore della sua vita e alla vigilia degli 80 anni. E quindi queste tappe le possiamo mescolare, ma ci appiccichiamo un'età di solito, no? Entro i 25 lavoro sicuro, entro i 30 casa, entro i 35 figli, figlie, eccetera. E però cosa succede quando le cose vanno diversamente? Quando quei piani, quelle tappe per noi non funzionano? Era davvero quello che volevamo? Era la nostra storia? O era la storia di qualcun altro? E se cambiassi storia, come si fa? Ecco, qui ci viene in aiuto un modo di dire che mi è sempre piaciuto. Gli dèi congiurano per il tuo successo. Cioè, hai sempre la possibilità di accedere alle tue risposte interiori. Hai sempre la possibilità di avere successo. Cioè di stare nel tuo punto di verità e di autenticità. Un bellissimo modo per farlo è partecipare al percorso online Il Fascino degli Dèi. 4 incontri di yoga e mitologia per abbracciare la propria anima. Tutti i giovedì di novembre, in diretta dalle 19.30 alle 21, via registrazione, che resterà a disposizione per una settimana almeno. Percorreremo insieme le vie dei miti, i racconti degli dèi, per abbracciare la nostra anima, la nostra verità, la nostra autenticità. Nei vari percorsi yoga e mitologia abbiamo incontrato veggenti, eroi, animali, muta forma. È ora di incontrare di nuovo anche gli dèi, giusto? Se ti iscrivi insieme a un'altra persona avrete entrambe un bello sconto sul contributo di partecipazione. Scrivimi per info. Se sei ad Ancona, domenica 6 novembre condurrò in presenza una masterclass di yoga e mitologia dalle 16 alle 18. Scrivimi per prenotare il tuo posto. Adesso ti propongo questo piccolo esercizio. Lì, dove sei in questo momento, alzati in piedi se puoi. Ora ascolta l'appoggio dei piedi a terra, lascia che i piedi si organizzino. Rilassa la mandibola e gli occhi. Lascia che la testa sia leggera, cioè fai le piccole oscillazioni che ti servono per aiutarti a trovare il punto di leggerezza della testa. Solleva le braccia verso l'alto con le dita delle mani allungate ma rilassate, verso il cielo. Ora pensa che le stelle conoscono il tuo nome. E quindi se puoi adesso, pronuncia proprio il tuo nome a voce alta. E stai quanto tempo desideri ad ascoltare le stelle che pronunciano il tuo nome. Poi lascia dolcemente. Che effetto ti ha fatto ascoltare le stelle che conoscono il tuo nome? È cambiato qualcosa rispetto a quando non pensavi che le stelle lo sapessero? Se sì, cosa? Mi racconti? Le parole che ho scelto per noi oggi sono di Joseph Campbell, dal suo Mito e Modernità. Se riesci a vedere di fronte a te il tuo cammino, passo per passo, allora quello non è il tuo cammino. Il tuo sentiero lo crei tu, passo dopo passo. è per questo che è il tuo. Un abbraccio grandissimo, Laura.